Tu quindi afferrami la mano che mi sento inutile. Chiudi gli occhi, andiamo lontano, testa tra le nuvole, sai. Ho fatto un giro e mi fa strano, da ogni parte cerite. E anche se ora non ci parliamo, vorrei tu sia felice. Io ti proteggerò dai mali, so che tra il dire e il fare c'è mezzo un mare di squali. Ed ho capito, nel mondo più sbagli e più impari. Faccio mamma non mamma ed un fiore a petali pari. Noi caduti all'improvviso, mentre rimaniamo sperduti, neanche un avviso. Fuori scambio gli sconosciuti, in giro il tuo viso, ma nessuna potrà mai avere quel tuo sorriso. No, mai, che poi è un altro giorno ma son come ieri. Dicono che tutto torna però non mi vedi con te. Io sotto gli occhi c'ho le borse per tutti quei tuoi forse. Passa una buona notte, se parlo di te mi aumenta il battito. Avrei dovuto godermi ogni attimo. Il per sempre nella vita non esiste. Una rosa sfiorita e triste avrà comunque tanto fascino. Vada come vada, ognuno per la sua strada. Ma la mia è complicata, è in salita, è sterrata. Ho amato in modo sbagliato, ma la persona giusta. Forse amato in modo giusto, ma la persona sbagliata. Tu quindi afferrami la mano che mi sento inutile. Chiudi gli occhi, andiamo lontano, testa tra le nuvole, sai. Ho fatto un giro e mi fa strano, da ogni parte c'eri te. E anche se ora non ci parliamo, vorrei tu sia felice. Anche senza di me sarà il giorno in cui tu ti scorderai di noi due, ma non voglio che quel giorno sia proprio ora.